Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Voi passate la vostra vita, disse Franz, viaggiando come il degno marinaio di cui avete preso il nome? Sì, è un voto che ho fatto in tempi nei quali non credevo assolutamente di poterlo compiere, rispose lo sconosciuto sorridendo. Ne ho fatti anche altri simili e spero che si compiano tutti, uno per uno. Sebbene Sinbad avesse pronunciato tali parole con il più grande sangue freddo, nei suoi occhi era passato un lampo di particolare ferocia. «Avete sofferto molto, signore», gli disse Franz. Sinbad trasalì e lo guardò fisso. «Da cosa lo capite?» chiese. «Da tutto», rispose Franz. «Dalla vostra voce, dal vostro sguardo, dal vostro pallore e dalla vita stessa che conducete». «Io?» «Io conduco la vita più felice che si conosca, una vera vita da pascià. Sono il re del creato. Mi piace un luogo, vi resto. Mi annoio, parto. Sono libero come un uccello, ho le ali come lui. Le persone che mi circondano mi obbediscono a un solo cenno e qualche volta mi diverto a burlarmi della giustizia umana, sottraendole o un bandito che essa ricerca o un criminale che perseguita. Poi ho la mia giustizia personale, giustizia alta e bassa, senza dilazione, senza appello, che condanna o che assolve e che non riguarda altri che me. Ah, se aveste gustato la mia vita non ne vorreste mai altra e non rientrereste mai nel mondo a meno che non aveste da realizzare qualche gran progetto. Una vendetta, per esempio, disse Franz. Lo sconosciuto fissò sul giovane uno di quegli sguardi che penetrano nel più profondo del cuore e del pensiero. «E perché una vendetta?» domandò. «Perché», soggiunse Franz, «voi avete l'aspetto di un uomo che, perseguitato dalla società, ha qualche terribile conto da regolare con essa». «Così come mi vedete», disse Sinbad ridendo con quel sorriso strano che mostrava i denti bianchi e aguzzi, «sono una specie di filantropo, e forse un giorno andrò a Parigi per fare concorrenza al signor Appert, l'inventore della carne in scatola. E pensate di farlo presto, questo viaggio?» «Non lo so ancora. Dipende da circostanze soggette a casualità fortuite». «Vorrei esserci quando ci verrete», disse Franz. «Cercherei di restituirvi per quanto mi è possibile l'ospitalità che così largamente mi avete prodigato a Montecristo». «Accetterei la vostra offerta con gran piacere», rispose l'ospite, «ma purtroppo se vi andrò sarà probabilmente in incognito». Infine, Ali portò il dessert, o piuttosto, prese i cestelli dal capo delle statue e li posò sulla tavola. Fra i due cestelli pose una tazzina d'argento dorato chiusa da un coperchio dello stesso metallo. Il rispetto con il quale Ali aveva portato quella tazza stuzzicò la curiosità di Franz. Alzò il coperchio e vide una specie di pasta verdastra che assomigliava a una confettura, ma a lui del tutto sconosciuta. Rimise il coperchio, continuando ad ignorare cosa contenesse la tazza, e rialzando gli occhi sull'ospite, vide che egli sorrideva del suo disappunto. «Voi non potete indovinare», gli disse questi, «quale specie di alimento contenga questo vasetto, e ciò vi incuriosisce, non è vero?» «Lo confesso. Avete mai sentito parlare del vecchio della montagna?» gli domandò l'ospite. «Quello stesso che volle far assassinare Filippo Augusto?» «Certo. Dunque, sapete che egli regnava in una ricca vallata dominata dalla montagna da cui aveva preso il suo nome pittoresco. In quella vallata c'erano magnifici giardini piantati da Hassan Ben Sabah, e in quei giardini c'erano dei padiglioni isolati. È in questi che egli faceva entrare i suoi eletti e faceva loro mangiare, disse Marco Polo, una certa erba che li trasportava nel paradiso, in mezzo a piante sempre fiorite, a frutti sempre maturi, a donne sempre vergini». «Allora?» esclamò Franz. «È l'hashish? Sì, lo conosco, almeno di nome». «Precisamente. Avete detto il suo vero nome?» Signor Aladino, questo è Ashish, il migliore in Alessandria. Ashish di Abu Ghor, il grande fabbricante, l'unico, l'uomo al quale si dovrebbe innalzare un palazzo con questa iscrizione. Al mercante di felicità, il mondo riconoscente. Sapete, disse Franz, che mi viene voglia di giudicare personalmente quanto c'è di vero o di eccessivo nei vostri elogi? Giudicate voi stesso. Una strana trasformazione si operava in Franz. Sembrava che il suo corpo acquistasse una leggerezza immateriale, che la mente si rischiarasse in modo inaudito, i sensi sembravano raddoppiare le loro percezioni, e fu vinto dal sonno. L'orizzonte si allargava sempre di più, ma non era quell'orizzonte cupo sul quale aleggiava un vago terrore, ma un orizzonte blu, trasparente, vasto, con tutto l'azzurro del mare, lo sfavillio del sole, i profumi della brezza. E poi, in mezzo ai canti dei suoi marinai, canti così limpidi e chiari che ne sarebbe nata un'armonia divina, se si fosse potuto scriverli, vedeva comparire l'isola di Montecristo non più come uno scoglio minaccioso sui flutti, ma come un'oasi persa nel deserto. E poi, mano a mano che la barca si avvicinava, i canti divenivano più numerosi, poiché un'armonia incantatrice e misteriosa saliva da quell'isola fino a Dio, come se una fata come Lorelai o un mago come Anfione avesse voluto attirarvi un'anima o costruirvi una città. Finalmente la barca toccò la riva, ma senza sforzo, senza scosse, come le labbra toccano altre labbra. Ed egli entrò nella grotta senza che cessasse questa incantevole musica, ed egli rivide tutto ciò che aveva visto prima di addormentarsi, cominciando dall'ospite fantastico, Sinbad, fino ad Ali, il muto servitore. Poi gli sembrò che tutto si cancellasse e si confondesse sotto i suoi occhi come le ultime ombre di una lanterna magica che si spenga, e si ritrovò nella camera delle statue, illuminata soltanto da una di quelle lampade antiche e dalla luce pallida che vegliano nel cuore della notte sul sonno o sulla voluttà. Erano proprio le stesse statue, dalle forme procaci, piene di lussuria e poesia, con gli occhi magnetici, i sorrisi lascivi e le capigliature foltissime. Erano Frine, Cleopatra, Messalina, le tre grandi cortigiane. Poi, nel mezzo di queste ombre impudiche, si introduceva come un raggio puro, come un angelo cristiano nell'Olimpo, una di quelle figure caste, di quelle ombre calme, una di quelle visioni dolci che parevano velarsi la fronte verginale alla vista di tali impurità marmoree. Allora gli sembrò che quelle tre statue avessero riunito i loro amori per un solo uomo e che questi fosse lui. e che si avvicinassero al letto in cui faceva un sogno nel sogno. Allora fu una voluttà senza tregua, un amore senza posa, come quello che il profeta prometteva ai suoi eletti. Allora tutte quelle bocche di pietra diventarono vive, tutti quei petti si fecero palpitanti, al punto che per Franz, il quale per la prima volta subiva il dominio dell'hashish, quell'amore era quasi un dolore. Quella voluttà quasi una tortura quando si sentiva posare sulla bocca riarsa le labbra di quelle statue morbide ma fredde come spire di serpente. Ma quanto più le sue braccia cercavano di respingere quell'amore sconosciuto, tanto più i suoi sensi subivano l'incanto di quel sogno misterioso, al punto che dopo una lotta in cui rese quasi l'anima, egli si abbandonò senza più resistere e finì per ricadere, ansimante, estenuato dalla fatica, esausto di voluttà, sotto i baci delle tre amanti marmoree e sotto l'incantesimo di quel sogno inaudito. Quando Franz ritornò in sé, si trovò in una grotta. Avanzò verso l'apertura e attraverso la porta centinata scorse un cielo blu e un mare azzurro. Allora gustò per qualche attimo quella fresca brezza che gli carezzava la fronte. Aveva la mente del tutto libera e il corpo perfettamente riposato. Si avvicinò dunque allegramente ai suoi marinai. Come lo rividero, essi si alzarono e Gaetano, il padrone della barca, gli andò incontro. «Il signor Sinbad», gli disse, «ci ha incaricati di portare i suoi omaggi a vostra eccellenza e ci ha detto di esprimervi il dispiacere che ha di non potervi salutare di persona, ma spera che lo scuserete quando saprete che un affare urgentissimo lo chiama a Malaga». Niente tratteneva più Franz a Montecristo. Si affrettò dunque a pranzare, ordinando ai suoi uomini di tenere pronta la barca per quando avessero finito. Mezz'ora dopo era a bordo. La barca navigò tutto il giorno e tutta la notte. L'indomani, al sorgere del sole, toccata terra, Franz dimenticò, almeno momentaneamente, gli avvenimenti appena trascorsi per portare a termine i suoi affari di svago o di cortesia a Firenze e per preoccuparsi solo di raggiungere il suo compagno che lo aspettava a Roma. Franz diede ordine al cocchiere di tenersi pronto per le 8. Voleva far vedere ad Alberi il Colosseo al chiaro di luna, come gli aveva fatto vedere San Pietro in pieno giorno. Quando si fa vedere a un amico una città che si è già visitata, ci si mette quella stessa vanità che si usa quando si indica una donna della quale si è stati l'amante. Di conseguenza Franz espose al cocchiere il suo itinerario. Doveva uscire dalla porta del popolo, costeggiare le mura esterne della città e rientrare dalla porta San Giovanni. In tal modo il Colosseo sarebbe apparso all'improvviso e senza che il Campidoglio, il Foro, l'Arco di Settimio Severo, il Tempio di Antonino e Faustina e la Via Sacra potessero fungere da gradini posti sulla via per rimpicciolirne la grandezza. Prima però si misero a tavola. Il signor Pastrini, il loro albergatore, aveva promesso un pasto eccellente. Servì loro una cena discreta, niente da dire. Alla fine della cena venne di persona. Franz, sulle prime, credette che fosse venuto per ricevere i complimenti e si apprestava a farglieli, ma alle prime parole questi lo interruppe. «Eccellenza!» disse. «Avete l'intenzione di visitare il Colosseo?» «Sì, certo. Avete detto al vostro cocchiere di uscire dalla porta del popolo e fare il giro delle mura per rientrare dalla porta San Giovanni?» «Sono le mie precise parole.» «Ebbene, questo itinerario è impossibile!» «Impossibile? O almeno, molto pericoloso!» «Pericoloso? Perché?» «A causa del famoso Luigi Vampa!» «E chi è questo famoso Luigi Vampa?» domandò Albert. «Può essere famosissimo a Roma, ma vi informo che è perfettamente sconosciuto a Parigi.» «Come non lo conoscete?» «Non ho questo onore.» «Non avete mai sentito pronunciare il suo nome?» «Mai.» «Ebbene, è un bandito al cui confronto i De Cesaris e i Gasparone sono quasi chierichetti.» «Ebbene, Albert», domandò Franz al suo compagno, «siete ancora disposto ad andare al Colosseo per i viali esterni?» «Certamente», disse Albert, «se è la strada più pittoresca.» In quel momento batterono le 9. La porta si aprì e il cocchiere comparve. «Eccellenze!» disse. «La carrozza vi attende!» «Ebbene!» disse Franz. «Andiamo al Colosseo!» «Per la porta del popolo, eccellenze, o per le strade interne?» «Per le strade interne, per Bacco, per le strade interne!» gridò Franz. «Ah, mio caro!» disse Albert, alzandosi a sua volta e accendendo il terzo sigaro. «In verità vi credevo più coraggioso!» Il riflessivo Franz, fatti appena 100 passi sotto i portici interni del Colosseo, lasciò Albert alle guide, che non volevano rinunciare al diritto imprescrittibile di fargli visitare in ogni dettaglio la fossa dei leoni, la loggia dei gladiatori, il podio dei Cesari, e salì per una scala mezzo rovinata, lasciandoli continuare il lento giro simmetrico. Si sedette semplicemente all'ombra di una colonna, davanti a un vano aperto che gli permetteva di abbracciare con lo sguardo il gigante di granito in tutta la sua maestosa estensione. Franz era là da circa un quarto d'ora, nascosto, come ho detto, all'ombra di una colonna, quando gli sembrò di udire il rumore di una pietra che si staccava e cadeva dalla scala che aveva di fronte e che aveva fatto per raggiungere il luogo in cui ora era seduto. Dopo un momento comparve un uomo che usciva gradualmente dall'ombra mano a mano che saliva la scala, la cui apertura, posta di fronte a Franz, era illuminata dalla luna, ma i cui gradini, mano a mano che li scendeva, sprofondavano nell'oscurità. Poteva essere un viaggiatore come lui, che preferiva una meditazione solitaria al cicaleccio insignificante delle guide, e di conseguenza la sua apparizione non aveva nulla di sorprendente. Ma dall'esitazione con la quale questi salì gli ultimi scalini, dal modo in cui, giunto sulla piattaforma, si fermò e parve mettersi in ascolto, era evidente che era venuto là con uno scopo e che aspettava qualcuno. Erano già trascorsi alcuni minuti da quando l'uomo era arrivato e già cominciava a dare manifesti segni di impazienza quando si udì un lieve rumore sulla terrazza sovrastante. Nello stesso momento un'ombra sembrò intercettare la luce. Un uomo apparve sull'orlo dell'apertura, immerse uno sguardo penetrante nelle tenebre e scorse l'uomo con il mantello. Si aggrappò subito a quelle liane pendenti e a quell'edera ondeggiante, si lasciò scivolare e, giunto a 3 o 4 piedi dal suolo, saltò con agilità a terra. Era completamente vestito come un trasteverino. «Scusatemi, eccellenza, se v'ho fatto aspettare», disse in dialetto romano. «Vengo da Castel Sant'Angelo e ho incontrato un sacco di difficoltà per poter parlare a Beppo». «Chi è questo Beppo?» «Beppo è un impiegato delle prigioni, al quale passo un piccolo compenso per sapere quello che succede all'interno del castello di Sua Santità». «E dunque, che avete saputo?» «Che martedì ci saranno 2 esecuzioni, alle 2, come è consuetudine a Roma per l'inaugurazione delle grandi feste. Uno dei condannati sarà ammazzolato. È un miserabile che ha ucciso il prete che lo aveva allevato e non merita alcun interesse. L'altro, invece, sarà decapitato. E questo è il povero Peppino». «Che volete, mio caro? Voi ispirate un terrore così grande non solo al governo pontificio, ma anche agli stati vicini, che si vuole ad ogni costo dare un esempio». «Ma Peppino non faceva nemmeno parte della mia banda. Era un povero pastore che non ha commesso altro crimine che quello di fornirci da mangiare». «E ciò lo fa vostro complice in piena regola». «Io sono disposto a fare di tutto per impedire l'esecuzione di quel povero diavolo. E se trova nei guai per avermi servito, per la Madonna! Mi riterrei un vile se non facessi qualcosa per questo bravo giovane». «E che farete?» «Metterò 20 di uomini intorno al patibolo. E quando vi verrà condotto, a un segnale che darò, ce lanceremo tutti, pugnali alla mano, sulla scorta e lo porteremo via». «Mi pare una cosa davvero azzardata. E ritengo decisamente che il mio progetto sia migliore del vostro». «E qual è il progetto di vostra eccellenza?» «Darò 10.000 piastre a qualcuno che conosco, il quale otterrà che l'esecuzione di Peppino sia rimandata l'anno prossimo. Poi, nel corso dell'anno, darò altre 1.000 piastre ad un altro tale che pure conosco, e lo farò evadere di prigione». «Ah, benissimo, benissimo. Ma e se fallite? Se fallite, noi ci terremo sempre pronti». «Tenetevi sempre pronti, se così vi piace. Ma siate certi che otterrò la sua grazia». «E come faremo a sapere se vostra eccellenza è riuscita?» «È semplicissimo. Ho preso in affitto le ultime 3 finestre del palazzo Ruspoli. Se ho ottenuto il rinvio, le 2 finestre ai lati avranno un paramento di damasco giallo e quella di mezzo ne avrà uno di damasco bianco con una croce rossa». «Sentite, eccellenza», disse il trasteverino, «io mi sono affezionato. Voi lo sapete, non è vero?» «Lo spero, almeno». «Ebbene, se voi salvate Peppino, il mio non sarà più affetto, ma per l'avvenire sarà cieca obbedienza». «Ebbene, fa attenzione a ciò che dici, mio caro. Forse un giorno ti ricorderò questo discorso, perché può darsi che un giorno sarò io ad avere bisogno di te». «Addio, eccellenza! Io conto su di voi e voi contate su di me!» Così dicendo, il trasteverino sparì per la scala, mentre lo sconosciuto, coprendosi più che poté il viso con il mantello, passò a 2 passi da Franz e scese nell'arena per la gradinata esterna. Di quei 2 uomini, l'uno era certamente sconosciuto a Franz, ed era la prima volta che lo vedeva e lo sentiva, ma non poteva dire altrettanto dell'altro, e benché non ne avesse scorto i lineamenti del viso, sempre immersi nell'ombra o nascosti nel mantello, il timbro di quella voce lo aveva troppo colpito la prima volta che l'aveva udito perché potesse risuonare nuovamente al suo orecchio senza essere da lui riconosciuto. C'era, soprattutto nelle inflessioni ironiche, qualcosa di stridulo e di metallico che lo aveva fatto rabbrividire nelle rovine del Colosseo come nella grotta di Monte Cristo. Per cui era del tutto convinto che quell'uomo altri non fosse che Sinbad il marinaio. Thank you.